Desiderio di solitudine. Solitudine ed apostolato, due richiami in una stessa anima. Chi avesse contemplato Don Vianney, sorridente e sollecito tra la folla sempre rinnovantesi dei pellegrini, non avrebbe potuto certo sospettare che egli fosse perseguitato dal desiderio della solitudine. Di ciò avevano un'idea solamente più intimi. Per tutti gli altri poteva invece sembrare quasi inverosimile questa affermazione di Caterina Lassagne. Il nostro curato è rimasto 41 anni nella parrocchia d'Ars, ma sempre contro la sua volontà. Egli medesimo, in una confidenza al conte di Garez, sindaco di Ars nel 1843, aveva detto: «È dall'età di 11 anni che domando a Dio la grazia di vivere nella solitudine, ma il mio voto non è mai stato esaudito». Ci è facile sapere donde era nato nella sua infanzia questo desiderio della solitudine. Col suo gusto innato della preghiera, giovane ancora, aveva compreso che solo il silenzio e il raccoglimento favoriscono gli slanci dell'anima verso Dio. Diventato curato, gli sembrò avere un motivo di più per desiderarli, perché ritenendosi ignorante ed incapace, non faceva che chiedersi se non avesse tentato il cielo accettando la missione di pastore di anime. Un giorno, col cuore spezzato, uscì in questo lamento: «Non è per la fatica che costa, ciò che spaventa è il conto che si deve rendere a Dio della vita di curato». E questo pensiero lo tormentò fino agli ultimi giorni della sua vita. Nel 1858, cioè quando aveva 72 anni, predicandosi una missione nella sua parrocchia per opera di Don Decote, egli si avvicinò un giorno al predicatore con aria allegra. Nel momento in cui stava per salire il pulpito, egli disse: «Questa volta ci convertite davvero». «Quanto a voi», rispose il missionario, «non avete nulla da temere. Io rispondo per voi». Ed il santo, sentendo queste parole, prese d'improvviso un'espressione di tristezza, quasi d'angoscia, e replicò: «Amico mio, voi non sapete che cosa voglia dire passare da una canonica al tribunale di Dio». Tale desiderio di ritiro, tale ansia di avere un piccolo angolo di terra ove ritirarsi a piangere la sua povera vita, lo tormentava già nei suoi primi anni di sacerdozio, poiché Caterina Lassagne ricorda di averne inteso da lui qualche accenno 2 anni appena dopo il suo arrivo in Ars. Del resto, noi sappiamo che nel 1827 personalmente aveva fatto istanza presso il suo vescovo onde ottenere un cambiamento. La ragione di ciò si può cercare nelle sofferenze che lo opprimevano per le calunnie sparse sul suo conto. Ma vi era anche un altro desiderio ed un'altra pena che lo tormentavano. Se il vescovo gli concedesse di spiegarsi con tutta libertà e confidenza, egli direbbe il segreto che lo fa soffrire. Il vescovo gli offre la parrocchia di Farin ed egli esita. Comprende che non è stato esaudito il suo voto e rimane nel suo piccolo paese. Chissà che restando ivi ancora non abbia maggior probabilità di successo quando domanderà che lo si lasci partire per la Trappa o per la Certosa. Nel 1830, quando la folla verrà da lontano per vederlo e giovarsi della sua opera, i suoi sentimenti a proposito di solitudine rimarranno uguali e i desideri diverranno ancora più intensi. Anche a Don Mermot, parroco di Chalain, venuto a chiedergli consigli di perfezione, confiderà gli stessi pensieri. Non si deve rimanere parroci fino al termine della propria vita. Bisogna riservarsi qualche tempo per prepararsi alla morte. Una simile parola piena di confidenza sarà detta 25 anni più tardi al canonico Camelet, superiore dei missionari di Pondent. «Io non vorrei morire, parroco, perché non conosco nessun santo che sia morto in questo posto. Vorrei avere almeno 2 anni per poter piangere la mia povera vita. Oh, mi sembra che allora amerei molto il Signore». L'eco di tali desideri e di tali gemiti giunse presto fino alle orecchie del vescovo di Belley, che però non vi diede mai retta. Don Vianney rimase così col suo desiderio misto alla speranza. Se non avesse almeno sperato di ottenere un giorno il consenso desiderato e richiesto, non avrebbe neppure continuato nella sua insistenza. E questa speranza, ha detto la contessa di Garez, era per lui un bisogno. Difatti, sono rare le volte in cui egli abbia scritto al suo vescovo anche per casi di coscienza, senza dirgli almeno una parola sul suo tormento. Ne fa fede anche la seguente lettera, scritta nel 1851, dalla quale togliamo un passo significativo. Era il tempo in cui Monsignor De Vie, ottenuto come coadiutore Monsignor Chalandon, pensava egli pure di lasciare la diocesi. Monsignore, poiché voi siete tanto fortunato da poter ritirarvi per non pensare che al cielo, io vi prego di concedere anche a me la stessa fortuna. Se voi partite senza accordarmi questa grazia, io ne morrò di dolore. Il vostro buon cuore mi perdoni tutti i dispiaceri che posso avervi causato. Ho grande fiducia che l'eccellenza vostra vorrà concedermi la grazia, il favore che tanto desidero. Ella conosce che non sono se non un povero ignorante, e questo è anche il pensiero di tutti. E si firma con umiltà grande Giovanni Maria Vianney, povero curato d'Ars. Ma anche questa lettera non ebbe veron successo, e Monsignor Chalandon, divenuto vescovo di Belley, riceverà qualche anno dopo la seguente supplica accorata: Monsignore, io divento sempre più infermo e bisogna che passi parte della notte su di una sedia o che mi alzi 3 o 4 volte nella medesima ora. Anche nel confessionale mi sorprendono svenimenti e qualche volta perdo i sensi per 2 o 3 minuti. In vista della mia malattia e della mia età, voglio dire addio per sempre alla parrocchia d'Ars. Monsignore, e si firma anche questa volta Vianney, povero infelice prete. Le medesime istanze si rinnovavano a viva voce ad ogni visita del vescovo. Nei giorni che la precedevano moltiplicava le mortificazioni. Pregava, piangeva, gemeva e digiunava prima di formulare la sua domanda. E nel momento in cui doveva giungere il prelato sentiva rinascere in cuore la speranza, tante volte sfumata. Un giorno Oriol lo vide giungere alla sagrestia pieno di giubilo e raggiante. «Sta per arrivare il vescovo», gli sussurrò all'orecchio, «e io gli domanderò una grazia che conoscete». Monsignore veniva e visitava anche spesso il suo santo amico, ma Don Vianney rimaneva curato d'Ars. Monsignor De Vie e Monsignor Chalandon, suo successore immediato, infatti, si opposero sempre con energia alla sua partenza dalla parrocchia. Monsignor di Langalerie, successo nella cattedra episcopale di Belley nel 1857, ricevette egli pure varie domande di questo genere, poiché Don Vianney, cosa che fa meraviglia, non si rassegnò mai completamente a morire sulla breccia. Come attesta il medesimo vescovo nel discorso pronunciato il giorno del funerale del curato d'Ars, il santo, nell'ultimo mese di vita, chiedeva ancora di ritirarsi. «Ah, eccellenza», ci diceva appena 15 giorni fa, «vi domanderò presto di lasciarmi partire per piangere i peccati della mia vita». E noi gli rispondemmo: «Buon curato, le lacrime dei peccatori valgono almeno quanto le vostre. Non parlate così, altrimenti non verremo più a visitarvi». Ma tutte le nostre parole di affetto e di incoraggiamento non sembravano convincerlo. Questo desiderio veemente della solitudine non ci fa nessuna meraviglia, perché ben sappiamo che il curato d'Ars avrebbe passato l'intera sua vita inginocchiato ai piedi del tabernacolo. Ma se noi esaminiamo questo desiderio, troviamo che in esso non era estranea una tentazione sottile che si nascondeva sotto un'apparenza legittima e che il santo stesso riuscì a scoprire, come hanno testimoniato molti che lo conoscevano da vicino. Il curato d'Ars, afferma Don Monin, riconobbe che questo desiderio così spinto non era alieno da intemperanza e che il demonio se ne valeva per tentarlo. Lo mortificò quindi e gli resistette, ma per tutta la sua vita dovette lottare contro il fascino di questa attrattiva. Più chiara e più esplicita ancora è la testimonianza del conte di Garez, sindaco di Ars. «Ho sempre trovato Don Vianney desideroso di ritirarsi nella solitudine, ed in questo desiderio io scorgo 3 motivi. 1. Amava declinare la responsabilità della parrocchia. 2. Ambiva a procurarsi il mezzo di piangere quella che egli chiamava la sua povera vita. 3. voleva sfuggire alle occupazioni troppo continue per avere dei momenti liberi che, secondo il suo desiderio, avrebbe consacrato alla preghiera e alla meditazione, e questi motivi li riconosceva egli stesso. Ma io ritengo che in tale persistente brama vi fosse anche una vera tentazione del demonio, di cui egli, quantunque illuminato nelle vie di Dio, non si rendeva vero conto. Il demonio conosceva che Don Vianney otteneva ad Ars grandi frutti nei frequentissimi pellegrinaggi e che altri ancora più grandi avrebbero potuto seguire. Aveva quindi tutto l'interesse ad allontanare il servo di Dio, sia pure con pretesti buoni. Fratel Atanasio, uno dei più intimi confidenti del nostro santo, ha dichiarato: Don Vianney aveva molte pene interne e soprattutto era tormentato dal desiderio della solitudine. Ne parlava spesso ed era come un'ossessione che lo perseguitava giorno e notte, perché egli mi diceva: quando non dormo la mia mente viaggia sempre e io mi trovo alla trappa o alla certosa a cercare un angolo di terra per piangere la mia povera vita e fare penitenza dei miei peccati. Del resto, la medesima confessione la troviamo sulle labbra di Santa Caterina da Siena, la seminatrice di miracoli acclamata dalle folle. «Perché, Signore», essa sospirava, «rendermi in questo modo il trastullo di tutti? Gli altri vostri servi possono vivere in pace, solo io no». Anche il nostro santo su questo punto non si vedeva mai esaudito, per cui, secondo Caterina Lassagne, un giorno fu udito esclamare: «Il Signore mi concede quasi tutto ciò che gli domando, ad eccezione di quanto gli chiedo per me». «È perché voi gli domandate di abbandonare Ars ed egli non vuole», rispose Caterina, e il curato non aggiunse parola. Ma in tale desiderio di raccoglimento e di solitudine, oltre alla tentazione e all'opera del demonio, vi era anche la prova che veniva dall'alto. Lo riconosce Don Monin, che ebbe a scrivere: «Mi sembra ci sia stato in questo anche una disposizione segreta della Divina Provvidenza, perché il nostro santo, sacrificando il suo desiderio all'obbedienza, il piacere al dovere, avesse occasione di vincersi e di rinunciare alla sua volontà». Ma il desiderio della solitudine aveva in lui un contrappeso ben forte nell'attrattiva dell'apostolato, e per un disegno divino il suo cuore fu combattuto fra questi due incessanti desideri. È fuori dubbio che la responsabilità delle anime lo spaventava. Un giorno, ad un seminarista di Lione, che si confessava da lui, gli chiese se fosse già negli ordini sacri, e quegli rispose: «Sì, sono diacono e mi rimane da attendere solo 3 mesi per essere prete». «Non parlate così, figlio mio», corresse il santo, «è sempre troppo presto per diventare sacerdote». E tuttavia egli era convinto della necessità del sacerdozio per le anime e sapeva che pascere il gregge di Cristo è per eccellenza opera d'amore. Desiderava la calma della solitudine, eppure non era mai così contento come quando i peccatori si moltiplicavano attorno a lui per giovarsi della sua opera. Avrebbe dovuto persuadersi una volta per sempre, ha detto la contessa di Garez, che egli era fatto per quest'opera. Se l'affluenza sembrava venire meno, era triste e faceva novene per ottenere un concorso maggiore. E quando, sopravvenuta la folla, lo si supplicava di concedersi un momento di riposo, egli obiettava che sarebbe stato un male fare attendere la povera gente venuta da lontano e che passava la notte all'aperto per attendere il momento di poter inginocchiarsi al confessionale. «Bisognerebbe», soggiungeva, «che il Signore concedesse anche a me il favore, elargito a molti santi, di trovarsi nel medesimo tempo in più luoghi. Se io avessi già un piede in cielo e si venisse a dirmi di ritornare sulla terra per lavorare alla conversione dei peccatori, vi ritornerei ben volentieri. E se per questo fosse necessario che rimanesse sulla terra fino alla fine del mondo, alzandomi sempre a mezzanotte e soffrissi come soffro, acconsentirei di tutto cuore». Un giorno, facendo il catechismo in chiesa, esclamò: «Se io avessi saputo che cosa vuol dire essere prete, mi sarei salvato presto nella trappa». Ed una voce partita dalla folla rispose: «Mio Dio, che danno sarebbe stato!» Anche questo grido, che veniva dal cuore, fu per il nostro santo un incoraggiamento ed una lezione. Tentativi di fuga. Ciò non toglie che a 3 riprese il curato d'Ars abbia tentato di abbandonare la sua parrocchia, e questo basta a farci intendere con quale interno affanno lo opprimeva il desiderio della solitudine. Credeva di aver intravisto, sia pure non chiaramente, la volontà imperiosa di Dio in opposizione alla volontà del suo vescovo, dal quale tuttavia si illudeva di ottenere un benevolo consenso. Un primo tentativo di partenza, quasi senza eco, e di cui lo stesso santo non fece cenno, se non molto più tardi, è del 1840. In una notte oscurissima, forse alle ore 2 del mattino, uscì dalla sua casa e si diresse solo per la strada che conduce a Villefranche. Dove andasse e che cosa pensasse di fare non si sa, né si saprà mai, perché egli non lo confidò a nessuno. Ma dopo aver camminato un poco arrivò alla croce delle Combes, non lontano dal villaggio d'Ars, e si fermò a riflettere. Ma è la volontà di Dio che io compio in questo momento? La conversione di un'anima sola non vale più di tutte le preghiere che io potrei fare nella solitudine? E ritornò sui suoi passi, ritornando fra le anime che già lo attendevano. Don Toccanier, che ci ha lasciato questo racconto, aggiunge che la tentazione di fuggire lo aveva assalito d'improvviso. La grave malattia del maggio 1843. Il tentatore, facilmente identificato, non si diede per vinto e credette di avere preziosa occasione di rivincita nelle indisposizioni e nelle malattie del santo uomo. Nel 1835 Don Vianney risentiva ancora gli effetti delle sue imprudenze di gioventù, nevralgie facciali, atroce mal di denti, violenti dolori di visceri che lo tormentavano spesso, gli ricordavano che non si passano impunemente le notti in una sala bassa su mattoni umidi. Gli sarebbe stato necessario un aiuto che gli permettesse di prendersi ogni tanto un poco di riposo. Ma se si fa eccezione per l'inverno 1839, in cui ebbe come ospite e come discepolo Don Alessio Taillade de Montpellier, fino al 1843 non ebbe alcun coadiutore. Monsignor de Vie, che penava per la scarsità numerica del clero, aveva dovuto limitarsi a raccomandare ai parroci delle parrocchie vicine di prestarsi volentieri in aiuto del loro confratello sovraccarico di lavoro. Fu in questo modo che Don de Rognat, parroco di Rancé, e Don Raymond, parroco di Savigné, gli furono di sollievo nelle diverse funzioni del suo ministero. Nel 1843 Don Vianney credette che la sua fine fosse ormai vicina. Appena 2 anni prima, del resto, si era già ritenuto prossimo alla morte ed aveva dettato il testamento, nel quale lasciava alla terra il suo corpo di peccati e consegnava la sua povera anima alle 3 persone della Santissima Trinità. Si apriva il mese di Maria ed il santo si preparava a predicarlo da solo, come già aveva fatto per 16 anni. Di solito faceva una lettura che poi commentava con abbondanza di osservazioni. Ma la sera del 3 maggio aveva appena incominciato a leggere quando un senso di soffocamento lo fece interrompere. Si inginocchiò per recitare la preghiera, ma riuscì a stento a proferire le prime parole. Era sfinito dalla febbre. Come è naturale, tutti gli furono attorno con ogni premura e fu condotto in una camera vicina alla sua, nella quale sarebbe stato più facile usargli le cure di cui aveva bisogno. Da molto tempo si trovava già ivi conservato come una reliquia il letto nel quale era morto Don Balley. Vi si portò anche il suo pagliericcio e, dopo aver tutto disposto meglio che si poté, vi si adagiò il santo privo di sensi. Si mandò a chiamare il dottor Saunier, che venne e diagnosticò una pleuropolmonite. Anche il conte di Garez, immediatamente informato, accorse alla canonica e, vedendo il suo povero curato su quel pagliericcio già sottile e per di più collocato su 2 assi, gli offrì un buon materasso, che riuscì a fargli accettare dopo ripetute istanze, forse anche perché il santo riteneva che tutto sarebbe presto finito. Il 6 maggio, giorno in cui Don Vianney entrava nel suo 58° anno, il dottore giudicò che il caso era disperato e, volendosi della simpatia che circondava il santo curato, poté facilmente trovare altri 3 medici che accorressero vicino al caro infermo per cooperare alla sua guarigione. Fu così che si tenne un consulto e si decise di lasciare il malato nella massima tranquillità, evitando di farlo parlare e di procurargli qualsiasi emozione, perché il cuore non batteva se non con estrema difficoltà. Ma Don Vianney non aveva punto perduto la sua presenza di spirito e lo dimostrò immediatamente quando, vedendo i medici attorno al suo letto, sorridendo disse: «Sostengo in questo momento una grande lotta. Ma contro chi, signor curato? Contro 4 medici. Se ne viene un quinto, sono morto». Questa riflessione spiritosa non deve far dimenticare che durante la grave malattia Don Vianney aveva tremato al pensiero del giudizio di Dio. Ne fanno fede le sue parole confidate al conte di Garez, che si fermò alla canonica finché giudicò vi fosse pericolo per la vita del suo curato. «Vorrei vivere ancora per poter piangere i miei peccati e fare un poco di bene», disse durante la notte, che fu molto agitata e piena di terrore. «Stanotte», ha aggiunto, «mi sembrava di udire voci di trionfo dei demoni che gridavano: "L'abbiamo, l'abbiamo, è nelle nostre mani". Ma la tentazione non lo turbò fino al punto di fargli perdere la pazienza o la confidenza in Dio. «Non si lamentava mai», ha detto Giovanni Pertinan, «e si sa che accettò per obbedienza tutti i rimedi prescritti, soffrendo i suoi dolori con la più perfetta sottomissione alla volontà di Dio, che egli vedeva in ogni cosa». Durante tutto questo tempo si sarebbe detto che ad Ars vi era un morto in ogni casa. I pellegrini, che in numero di 200 o 300 non avevano potuto confessarsi, andavano errando attorno alla chiesa come un gregge senza pastore e si rifiutavano di indirizzarsi a Don Lacotte, parroco di Saint-Jean-Levier, che era stato incaricato dell'assistenza interinale. «Dovete confessarvi dal sacerdote chiamato da Don Vianney», disse Don Renard ad una donna, ma questa gli rispose: «Io non ho il coraggio di ricominciare. Permettetemi di presentarmi in ginocchio sulla soglia della sua camera perché egli mi veda e mi benedica. Solo questo porterà un poco di calma alla mia anima agitata». Nella unanime persuasione della sua prossima morte, venivano portati al capezzale del morente canestri di rosari, medaglie ed immagini, e Don Vianney levava la sua mano a benedire questi cari ricordi. La contessa di Garez, a commento di questo fatto, diceva: «Io non so se tutti i vescovi della Francia presi insieme ne benedicano altrettanti». Ormai non si aveva più speranza se non in un soccorso diretto del cielo, ed i pellegrini, che avevano abbandonato il suo confessionale, a certe ore si assiepavano davanti all'altare di Santa Filomena, ove venivano accesi innumerevoli ceri. Alcuni preti avevano incominciato una novena di messe, ma con tutto questo la chiesa senza di lui era come deserta. La sera dell'11 maggio, sembrando imminente l'agonia, 7 preti si erano riuniti nella sua camera e si preparavano ad amministrargli gli ultimi sacramenti. Il suo confessore, Don Valentin di Jansan, giudicava prudente lasciare ignorare questa funzione ai parrocchiani e ai pellegrini, ma il malato insistette: «Sì, sì, fate suonare, un curato ha bisogno che si preghi per lui». E suonò la campana e nelle scale come nel piccolo cortile irruppe come un fiume la folla. «Credete in tutte le verità che la Chiesa insegna?» domandò con voce tremante il suo confratello parroco di Jassan. «Non ne ho mai dubitato», rispose il santo, e ricevette gli ultimi sacramenti con un'espressione di fede che impressionò gli assistenti. Quando questi se ne furono partiti e rimase solo presso il capezzale del morente il parroco di Farein, Don Dubois, il santo, domandando la guarigione, fece voto a Santa Filomena di far celebrare 100 messe in suo onore ed ordinò che un gran cero si collocasse ad ardere davanti alla sua immagine. Poi sembrò passasse subito allo stato di coma. Gli astanti si erano inginocchiati attorno al letto e solo il dottor Saulnier rimaneva in piedi, non avendo più alcun dubbio sulla sua fine imminente. Il santo, che rimaneva immobile con gli occhi chiusi, udiva il medico preannunciarne la fine. «Mia povera cugina», scriverà egli alcuni mesi più tardi a Margherita Humbert di Dardigli, Quando io ero moribondo, dopo di aver ricevuto l'estrema unzione, intesi il medico che diceva: non ha più se non 30 o 40 minuti di vita. Ed io allora pensai: Dio mio, dovrò dunque presentarmi a voi con le mani vuote? E mi rivolsi alla Santa Vergine e a Santa Filomena, dicendo: ah, se potessi ancora essere utile alla salvezza di alcune anime. Mia buona cugina, aggiungeva, quando vi troverete presso i moribondi, leggete ad alta voce, perché l'ammalato sente, anche se può sembrare che abbia perduto la conoscenza. Appena il curato Vianney ebbe pronunciato nel suo cuore l'invocazione alla Santa Vergine e alla sua cara piccola santa, si sentì meglio, aprì gli occhi, poté proferire qualche parola e godette di 3 ore di riposo, durante le quali lo si vide calmo, con le mani giunte, pregando con fervore angelico. Disgraziatamente lo riprese la febbre con molta violenza ed il medico pensò si trattasse di un prolungamento di vita di qualche ora, ma non osò pronunciarsi. Si decise tuttavia che se il moribondo avesse resistito durante tutta la notte, al mattino Don Dubois avrebbe celebrato all'altare di Santa Filomena la prima delle 100 messe che erano stato l'oggetto del voto del curato Dars. All'alba del giorno 12 l'ammalato respirava ancora, ed appena questa notizia si divulgò, la piccola chiesa si riempì di gente, intanto che all'altare di Santa Filomena incominciava il sacrificio promesso. Nel cielo Dars non sono mai salite preghiere più ferventi di quelle che allora si recitarono. Frattanto vegliava al capitale del morente il maestro Pertinan, il quale, osservando come il curato, agitato da altissima febbre, sembrava in preda a grande ansietà, già si disponeva a ricevere il suo ultimo respiro. Ma ecco che d'un tratto l'ammalato divenne tranquillo e sembrò rassicurato da una visione che contemplava estasiato. Appena finita la messa, esclamò: «Amico mio, si è operato in me un grande cambiamento. Io sono guarito». Già prima, mentre sembrava in estasi, aveva pronunciato a più riprese il nome di Santa Filomena, concorrendo a formare l'opinione che gli era apparsa la sua cara e piccola santa. Egli medesimo non dubitò di attribuire a lei una guarigione così improvvisa ed insperata. E quando i medici ebbero a chiamare meravigliosa la prontezza con la quale gli ritornavano le forze, egli corresse: dite piuttosto miracolosa. Finalmente, dopo 16 giorni che gli parvero interminabili, poté rivedere la sua chiesa ed il suo tabernacolo, ed il giorno 20, sostenuto dal fedele Pertinan, poté anche celebrare la Santa Messa. Erano appena le 2 del mattino, poiché la sua debolezza non gli consentiva di rimanere a lungo digiuno. Ma l'ora incomoda non aveva trattenuto nessuno e tutta la parrocchia si trovava riunita in chiesa. Per dire questa messa scelse l'altare della Santa Vergine, come faceva ogni sabato, ed io, aggiunge la contessa di Garez, avrei voluto vedere in questa cappella tutti coloro che amo. Tanto era straordinaria l'espressione dipinta sul viso del santo curato. Quali ricordi incancellabili! Sembrava di assistere ad una messa delle catacombe. Don Vianney riteneva che la sua convalescenza fosse già molto avanzata, ma si sottomise alla volontà del medico, che gli vietò di riprendere il suo lavoro fino a guarigione completa. La contessa di Garez dice che ogni volta che veniva alla chiesa gettava uno sguardo molto espressivo al suo confessionale e sembrava che allora il suo desiderio più grande fosse quello di riprendere prontamente le forze per ritornare al suo lavoro. La fuga del 12 settembre. La gioia subentrata in Ars alla notizia della guarigione del santo curato fu presto turbata da una nuova ansietà che sembrò dipingersi sul volto di tutti, come ci lascia intendere la contessa di Garez, che in data 17 maggio scriveva a sua madre: ma che cosa farà di questa vita di cui ha domandato il prolungamento? Che farà di queste forze delle quali sollecitò con ardore il ritorno? Queste sono le domande che si sentono ad Ars. Noi temiamo di perdere, perché egli stesso vuole andarsene, colui che il cielo ha conservato alla terra. La gioia per la sua guarigione è molto turbata da queste penose apprensioni. Dopo 10 giorni ogni dubbio era scomparso. Quando il conte di Garez si recò a fare visita al convalescente, lo trovò nella sua camera, seduto sul suo letto e piangente. «Che cosa avete dunque?» gli chiese il sindaco. «Non si saprà mai», rispose il santo, «quante lacrime ho versato su questo pagliericcio, io che dall'età di 11 anni domando la solitudine, e chiuse con un singhiozzo, non ho mai trovato altro che un rifiuto». «Temiamo molto», scrive la contessa dopo il racconto di questa visita, «che il nostro santo curato abbia a fuggire e che ci tocchi di piangerlo vivo dopo di avere salutato con tanto trasporto di giubilo la notizia della sua guarigione. Non possiamo dissimularcelo. Il santo crede di avere finito la sua giornata di lavoro. Aveva detto, continuerò fino al giorno in cui dovrò soccombere. Ed ha dovuto soccombere, e se ha domandato la vita, fu solamente per poter meglio prepararsi alla morte, nel silenzio e nella solitudine. Gli è stata resa la vita e gli sembra che con la guarigione il cielo gli abbia dato anche la libertà. Ecco che cosa pensa e a che cosa aspira». Si diceva che eravamo troppo orgogliosi del nostro curato e che Dio ci avrebbe punito e si aveva ragione. Intanto passavano le settimane e la minaccia rimaneva sospesa, senza che il curato facesse alcun preparativo per la partenza. Eppure era deciso ad andarsene e non aspettava che di recuperare le forze perdute. Naturalmente aveva già tolto dal suo letto il materasso che credeva diventato inutile e dal primo cenno di consenso del medico era ritornato al suo confessionale, entrandovi fin da principio all'1 dopo la mezzanotte. Il buon maestro Pertinan aveva un bel insistere in contrario, anche impedendogli il passo. Il santo lo congedava con queste semplici parole: «Amico mio, quando era ammalato facevo la volontà di Dio, obbedendo. Ora tocca a voi obbedire. Andate a dormire». Il dottore aveva creduto dover chiudere un occhio su simili imprudenze del suo malato e raccolse per questo la riconoscenza dei pellegrini, ma rimase intransigente almeno sul punto che riguardava il suo regime, prescrivendogli che fino al completo ristabilimento dovesse prendere 2 pasti al giorno, mangiando un poco di carne a mezzogiorno e bevendo 1/4 di bicchiere di vecchio Bordeaux ogni volta. Il santo ne ebbe rimorso, ma Monsignor De Vie aveva aggiunto il suo comando alla ricetta medica, obbligandolo a sottomettersi. Lo si vide allora gemere, fino al punto che attorno a lui si dovette sorridere. «Sono diventato goloso, ora otteniamo meno grazie. Non mi trovo più tanto bene quando vado a confessarmi». Ma anche ora il santo non era né meno pallido né meno magro che per il passato, eppure non contando che 57 anni già presentava l'aspetto di un vegliardo. Don Feb, della diocesi di Saint-Claude, che ebbe occasione di visitarlo il 27 agosto di quell'anno, esclamerà più tardi: «So cosa vuol dire essere missionario e passare il giorno a predicare, a confessare ed a fare il catechismo. Vista la sua vita mortificata e penitente, umanamente parlando, non gli diedi più di 3 mesi di vita». Né meno pessimistici erano i medici, che ritenevano necessario che Don Vianney cambiasse parrocchia ed anche, questo però non osavano dirglielo, lasciasse l'attività del confessionale. Anche Monsignor De Vie gli aveva scritto per autorizzarlo a prendere un poco di riposo. D'altronde, egli stesso, anche senza speciale permesso del vescovo, non poteva in forza delle leggi ecclesiastiche assentarsi dalla parrocchia per lo spazio di 15 giorni dopo di aver disposto per la supplenza. In questo frattempo, Don Raymond, parroco di Savigny, era più spesso nella parrocchia di Ars che nella sua e non poteva prestarsi per la supplenza. Il santo, sempre deciso e fermo su tutti gli altri punti, rimaneva ora nell'incertezza. Desiderava sottrarsi per qualche settimana alla folla dei pellegrini, e questo desiderio non aveva nulla di criticabile, ma lo sorprendeva tosto la tentazione di ritirarsi per sempre nella solitudine e di non più ritornare. Tanto per decidere qualche cosa aveva scritto al fratello Francesco pregandolo di apparecchiargli una camera nella casa paterna di Dardigli, sempre a lui tanto cara. Finalmente, l'11 settembre, il povero curato aprì l'anima sua a Don Raimond, che non sollevò obiezioni. Non desiderava forse segretamente di divenire egli stesso parroco di Ars. Per questo promise di portare al più presto una lettera al vescovo, nella quale Don Vianney supplicava il suo superiore di concedere al povero curato d'Ars un posto in cui si troverebbe bene, con l'affidargli, per esempio, il servizio nella cappella dei minimi a Montmerle, ove non vi era altro obbligo che quello di dire la messa. La fuga avvenne nella notte dall'11 al 12 settembre. Ma prima di partire, il santo non aveva potuto trattenersi dal dare il suo saluto alla provvidenza, e fu per questo che corse il rischio di rovinare tutto. Prima delle 10 della sera, il segreto che Caterina e le altre avevano promesso era già passato in pasto a tutta la popolazione di Ars e ai pellegrini stessi, e molti stavano ad attendere vicino alla canonica. Poco dopo l'una di notte si sentì il rumore di qualcuno che veniva dal giardino. Era precisamente il curato, che aveva il breviario in una mano ed un piccolo involto nell'altra. Qualcuno tentò di fermarlo, presentandogli qualche oggetto da benedire, ma tutto fu inutile, perché egli, affrettato il passo, già discendeva verso la passerella del Fontblanc per scomparire nella notte oscura. Si gridò al maestro Pertinand che lo seguisse, e questi, affrettandosi sui suoi passi, lo raggiunse poco lontano dal villaggio, quando già si era perduto fra i campi. «Signor curato», gli gridò, «perché ci abbandonate in questo modo?» «Su, non perdiamo tempo. Ho scritto al vescovo per chiedergli il permesso di ritirarmi ed ora attenderò la sua risposta a dargli. Andrò a Nostra Signora di Fourvière a celebrare la messa per meglio conoscere la volontà di Dio. Se il vescovo acconsente, sarà esaudito il mio desiderio. Diversamente ritornerò. D'altronde la parrocchia non ci perderà, perché ho provveduto a tutto». Don Vianney e Giovanni Pertinand si allontanarono nella direzione di Dardigli, quando ad un tratto il fuggitivo si fermò e, rivoltosi con una certa vivacità al suo compagno di viaggio, gli disse: «Giovanni, mi tradisci?» Durante le sue lunghe sedute al confessionale le strade erano state rettificate ed egli non le riconosceva più. Al maestro fu abbastanza facile fargli comprendere la cosa, e i due viaggiatori continuarono insieme il loro cammino pregando o discorrendo. Nelle 7 ore che durò il viaggio abbiamo recitato almeno 10 volte il rosario, disse Pertinand. Giunti a Trevaux, assai di buon'ora, Don Vianney, per un sentimento di carità, non volle incomodare il guardiano del ponte che dormiva. A Neville, ove i due pellegrini già stanchi attraversarono la Saône, il nostro santo, partito da casa senza denari, si offrì di pagare la colazione al suo compagno di viaggio, ricco quanto lui, cercando di impegnare il loro alloggio, ma Pertinand oppose un reciso rifiuto. Il medesimo tentativo fece con la guardia del ponte di Neville, che rispose: «Pagherete un'altra volta». E il santo arrivò finalmente sulla soglia della casa paterna, ma così sfinito che dovette accettare di porsi a letto immediatamente. Quando anche Giovanni Pertinand ebbe preso il necessario riposo, il santo gli disse: «Ora ritornate pure a casa. Verrete venerdì della prossima settimana, perché sabato andremo insieme alla Fourvière. Poi vedremo». Ma le previsioni del santo questa volta non si avverarono. Il mattino del 12 settembre si diffuse in Ars la persuasione che Don Vianney si era ritirato alla Certosa e per sempre, e ciò bastò perché non si vedessero che visi costernati. Con lui sembrava che la gioia e la vita fossero scomparse dal villaggio. Difatti, appena 2 giorni dopo, la contessa di Garez scriveva: «La scuola delle fanciulle, la provvidenza, risuona di sospiri e di gemiti, e già almeno la metà delle allieve se ne è partita fra la desolazione. La folla dei pellegrini si è dileguata, la chiesa è quasi deserta, e solamente alcune povere figliole ogni tanto vi si recano a pregare. Non vi posso dire la tristezza che opprime ogni cuore alla vista di un cambiamento così repentino e completo. È come un passaggio dalla vita alla morte. Avevamo un capitolo della vita dei santi svolgentesi sotto i nostri occhi ogni giorno, ma ora si è voltato pagina». E Don Raimond, che pure conservando ancora il titolo di parroco di Savigny, ormai rimaneva in Ars col desiderio di essere al centro dei pellegrinaggi, dovette intendere la lezione e capire che la presenza di Don Vianney era la sola ragione di tanto movimento. Difatti, dal giorno in cui si conobbe il luogo ove si era ritirato Don Vianney, Ars non fu più in Ars. Il giovedì 14 settembre, Giovanni Pertinan, di ritorno ad Ars, informava il conte di Garez del luogo ove si era recato il curato e quegli si affrettava a raggiungere Dardigli. Ma Francesco Vianney, usando di un sotterfugio, disse che il fratello era partito e di non sapere dove si fosse ritirato, così che il conte dovette accontentarsi di scrivere poche righe per il suo curato. «Non decidete nulla ancora per il momento. So meglio di ogni altro che avete bisogno di riposo. Rimanete pure presso vostro fratello tutto il tempo che vi sarà necessario, ma non dimenticate la vostra povera parrocchia. Pensate a tutte queste sante anime che conducevate sulla via del cielo e tutte le altre che se ne erano allontanate e che voi avete condotto a Dio. Pensate alla vostra provvidenza di cui siete l'anima e il sostegno e che non può esistere senza di voi. Pensate ancora al bene della religione che il Signore medesimo vi ha chiamato a sostenere e a glorificare». Mentre il conte di Garez scriveva queste parole commosse, il santo si trovava in preghiera in una camera della medesima casa, né seppe del fatto se non quando il conte era già partito. Presa allora la lettera, la lesse a più riprese, restandone profondamente impressionato. Arrivarono anche altre corrispondenze, fra le quali una di Caterina Lassagne, apportatrice di cattive notizie, che lo informava del numero delle figliuole ridotto a poco più di una quindicina, e che era ritornato anche Don Raimond dopo la visita al vescovo, il quale gli aveva affermato che non avrebbe dato mai il suo consenso alla partenza di Don Vianney dalla diocesi di Belley. E ne giungeva infine anche un'altra, spedita da un oste del villaggio, che si era là stabilito contro il parere del curato e che, preoccupato ora perché i suoi affari andavano di male in peggio dopo la partenza di Don Vianney, gli scriveva: «Signore, m'affretto a pregarvi di non abbandonarci. Sapete ciò che vi ho sempre detto. Vi ripeto ora, dal fondo del mio cuore, che se nella mia casa vi è qualche cosa che non vi piace, mi sottometterò interamente alla vostra volontà». Ma quale non fu lo stupore e anche l'imbarazzo di Don Vianney quando vide arrivare a Dardigli i pellegrini di Ars. Avevano conosciuto il luogo ove si era rifugiato e venivano a trovarlo. Che fare? Doveva rimandarli? Non vi pensò neppure. Avendo chiesto la facoltà all'arcivescovado di Lione, passò al confessionale della chiesa natia, intanto che la zuppa preparata gli aspettava in un angolo del focolare. Ogni momento giungevano nuovi pellegrini che battevano alla porta del fratello, il quale protestava: «Se rimane qui, io sarò obbligato a domandare aiuto. Non sono più padrone in casa mia». La sera di sabato 16 settembre, l'oste Francesco Pertinan, fratello del maestro, guidava verso Dardigli 23 giovani della parrocchia di Ars, che si presentarono di buon mattino alla casa dei Vianney. Ma questi rifiutarono di riceverli, ed ecco che subito si intende la voce dolce e ben nota del santo, che aveva sentito tutto e si affacciava alla finestra invitandoli ad entrare nella sua camera. Con essi recitò il rosario ed infine li condusse alla chiesa perché ascoltassero la sua messa. Il santo insistette per averli con sé a colazione, ma quelli per discrezione non accettarono e nella notte fra la domenica e il lunedì presero la via del ritorno. Prima di partire avevano sentito dal curato queste parole: «Martedì assisterete tutti alla messa nella vostra parrocchia. In quel mattino io dirò la messa alla Fourvière per conoscere la volontà di Dio e voi pregherete per me». Ma la volontà di Dio si manifestò in modo diverso. Nella sera del sabato 16 settembre era giunto a Dardigli Don Raimond, che si diceva incaricato di una missione ufficiale da parte del vescovo di Belley. Per non dare motivo ad alcun sospetto, verso le 8 si presentò al parroco del villaggio, che lo ricevette abbastanza freddamente, perché già si sospettava che questo prete, che si diceva mandato dal vescovo, fosse venuto per condurre lontano Don Vianney. Don Raimond, nella speranza di tranquillizzare il parroco di Dardigli, si offrì per cantare la messa nel giorno seguente. Questi accettò e si rimase d'accordo che in seguito il messaggero del vescovo si sarebbe intrattenuto con Don Vianney. Difatti, il santo, dopo la messa, condusse il parroco di Savigny nella casa di suo fratello Francesco, che era abbastanza vicina alla chiesa. Era impaziente. Quale sarebbe stata la risposta di Monsignor De Vie? Percorse la lettera consegnata a Don Raimond e si vide allora il disinganno dipingersi sul suo volto. Si astenne però dal fare qualsiasi riflessione sia pro che contro. Congedato Don Raimond, il santo discese alla sua camera per calmare Francesco, il quale, circondato dai parrocchiani di Ars, che sopravvenivano incessantemente, si lagnava con amarezza di tanta importunità col loro curato. Don Raimond pranzò in canonica, ove sentì dirsi dal parroco queste significative parole: «Ve ne prego, lasciate Dardigli al più presto possibile. Ormai si sa perché siete venuto. Lasciate tranquillo Don Vianney. In caso diverso potreste trovarvi male». Ma il delegato vescovile persistette nel desiderio di condurre Don Vianney tra i suoi parrocchiani, tanto più che prima di questo viaggio, in un colloquio avuto col conte di Garez, aveva chiaramente compreso che invano coltivava il suo desiderio di diventare parroco di Ars. Don Raimond assistette anche ai vespri cantati dal santo e dopo la benedizione ebbe ancora un colloquio col parroco di Dardigli, che nuovamente lo sollecitò a lasciare la parrocchia. Lo stesso diceva poi al santo: «Vi sono molti in Dardigli che lo guardano di cattivo occhio», ed il santo amabilmente rispondeva: «Oh, non inquietatevi per Don Raimond, non si spaventa tanto facilmente». Ma anche Don Vianney aveva già preso la sua decisione. Il vescovo gli offriva la cappellania di Nostra Signora di Beaumont, pregandolo tuttavia di riflettere ancora prima di decidersi, ed egli si sarebbe colà recato perché la Vergine ivi venerata gli suggerisse la suprema e definitiva decisione. Rimaneva da vedere come eludere la sorveglianza delle persone di Dardigli che già montavano la guardia attorno alla casa dei Vianney. Precisamente in quella sera della domenica, nella quale Don Vianney si disponeva a dormire per l'ultima volta sotto il tetto paterno, si presentò in cortile una legazione scelta fra le persone più distinte del villaggio ed il santo dovette discendere per accordare anche a queste un'udienza. «Scegliete qui il luogo del vostro ritiro», gli dissero quegli uomini con molta premura. «Noi ci impegneremo di ottenervi tutte le autorizzazioni necessarie». Ed il loro illustre compatriota si accontentò di rispondere graziosamente: «Se voi siete capaci di riuscirvi, io non domando di meglio». E quelli se ne ritornarono tranquilli. I buoni parrocchiani di Dardigli sarebbero rimasti là fino all'alba se avessero saputo che tra Don Vianney e Don Raimond si era già preparato tutto il piano di fuga. Don Raimond lasciò la canonica di Dardigli dicendo che andava a portare al vescovo la risposta di Don Vianney. In realtà pensava di recarsi ad Albigny, ove avrebbe preso alloggio presso il parroco Martin, suo amico intimo, per ivi attendere Don Vianney. Era stato messo a parte di questo segreto anche il fratello di Don Vianney, Francesco, il quale, già stanco di tante visite che lo avevano assediato per 2 o 3 giorni, volentieri acconsentì a favorire la fuga. Il santuario di Nostra Signora di Beaumont. Il lunedì mattina, 18 settembre, i due fratelli, che si erano alzati molto presto, presero insieme, nelle tenebre, la via di Albigny. Francesco guidava il cavallo sul quale era il santo, ma quando furono vicini nelle vicinanze di Albigny, Giovanni Maria domandò di continuare la strada a piedi e, disceso dalla cavalcatura, prese congedo dal fratello e si inoltrò solo nella borgata. La prima impressione, entrando in questo villaggio, fu assai penosa, perché il giorno antecedente si era tenuta la sagra e si ballava ancora all'alba del lunedì. Don Vianney ritrovò Don Raimond, celebrò la sua messa e dimostrò una grande premura di continuare il viaggio. Non era facile giungere fino a Beaumont, sperduto fra gli stagni della Dom, a circa 50 chilometri da Dardigli. Dopo aver passato la Saône a Neuville, Don Raymond sperava di poter trovare una vettura, ma essendo state vane tutte le ricerche, i nostri due viaggiatori dovettero fare a piedi le 5 leghe che separano questo villaggio da Saint-Marcel, ove il sindaco, incontrandoli, riconobbe Don Vianney. Furono costretti a fermarsi per riposare un poco, ma ecco, appena si divulga la notizia della presenza del curato d'Ars, la chiesa si riempie di popolo e Don Vianney è così costretto a salire in pulpito e a tenere una predica sul distacco dalle cose di questo mondo, sulla brevità della vita e sulla felicità del paradiso. Più tardi trovarono un vetturino che al calare della notte li condusse a Marlier, parrocchia dalla quale dipendeva la cappellania di Beaumont. Nostra Signora di Beaumont, rustico santuario, i cui vasti orizzonti si aprono su immense pianure, durante la bella stagione attirava buon numero di pellegrini. Una tradizione locale voleva che la Santa Vergine, accondiscendendo alle preghiere di genitori desolati, più volte avesse ivi risuscitato bambini morti senza battesimo e li avesse mantenuti in vita fino al momento in cui avessero potuto ricevere il sacramento che apre la via al cielo. Il martedì mattina il parroco di Marlier condusse alla vecchia cappella i suoi ospiti giunti durante la notte e là il curato d'Ars celebrò la Santa Messa per il primo per implorare i lumi dello Spirito Santo. Quando ebbe finito, Don Raymond gli chiese se avesse preso una decisione. «Non ancora», rispose il santo, «continuerò a pregare intanto che servirò la vostra messa». Ma appena tornato in sagrestia, esclamò «Il Signore non mi vuole qui». «Dove volete andare dunque?» «Ritorniamo ad Ars». La parola definitiva era detta. Ritorno trionfale. Immediatamente Don Raymond organizzò il ritorno ed una vettura fu presto pronta per trasportare i due viaggiatori attraverso i melanconici stagni della Dombe fino ad Amberieu. Don Vianney, che ogni tanto piangeva e non cessava di pregare, ad Amberieu disse «La vettura mi affatica e camminerò a piedi». In questo modo superò di fatti i 7 chilometri che lo separavano da quel piccolo villaggio che tanto amava, dal quale era fuggito per meglio trovare Iddio e al quale Iddio lo conduceva irresistibilmente. A Savigny, su consiglio del suo compagno di viaggio, entrò nella chiesa per adorare il Santissimo Sacramento ed anche per riposarsi un po', e frattanto un messo venne inviato ad Ars ormai vicino per annunciare da parte di Don Raymond che il curato era di ritorno e che sarebbe giunto fra un'ora. Appena nel fortunato villaggio si sparse questa notizia, si suonarono le campane a festa fra il giubilo universale, come ha detto Caterina Lassagne. Ognuno si affrettava ad accorrere per vedere colui che si era allontanato da 8 giorni e perfino coloro che stavano lavorando sull'aia se ne vennero nei loro abiti di lavoro. Finalmente, verso le ore 5, fra l'allegro suono delle campane a distesa comparve il curato d'Ars. Appoggiandosi ad un bastone si diresse verso la piazza ove lo attendevano le sue pecorelle. «Dunque, tutto era perduto?» esclamò giungendo in mezzo ad esse. «Ebbene, ecco che tutto è ritrovato. Non vi abbandonerò più, figli miei. Non vi abbandonerò più». Né poté dire altro perché la commozione gli soffocava la parola. Ma i suoi occhi levati al cielo, il movimento delle sue braccia tremanti dicevano abbastanza tutta la sua gioia. Sostenuto da Don Raymond, fece più volte il giro della piazza benedicendo i suoi parrocchiani, mentre tutti non potevano che piangere e balbettare qualche parola, inginocchiandosi davanti a lui. Il santo passò poi alla provvidenza, accolto come padre fra un giubilo universale, ma era anche esaurito dalla fatica e credette bene di anticipare l'ora della preghiera della sera che volle recitare egli medesimo, circondato dai parrocchiani tutti riuniti in chiesa. «Ecco dunque», scrive Caterina Lassagne nel suo Petit Mémoire, «ecco che il nostro curato era stato reso ai nostri desideri. Si concesse qualche giorno di riposo, perché la folla dei pellegrini si era dispersa durante la sua assenza, e riprese in mezzo a noi le sue ordinarie funzioni. Appena si seppe del ritorno, i pellegrini arrivarono da tutte le parti ed egli ricominciò il suo lavoro. «Che sarebbe stato di tanti poveri peccatori?» esclamò egli ingenuamente. E da allora, conchiude il conte di Garez, comprese meglio che Dio lo voleva in mezzo a noi.